La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. A Pesaro, qualche giorno fa, una giovane donna entra nel portone di casa sua, un uomo a viso coperto la aggredisce, le butta in faccia il vetriolo e scappa. Questo è accaduto a un giovane avvocato di 35 anni, Lucia Annibali, che è stata ricoverata all'ospedale in gravissime condizioni, con rischio di perdere la vista, ed è stato immediatamente arrestato il suo ex fidanzato, avvocato anche lui, che era stato lasciato. Questo uomo aveva un alibi, stava giocando a calcetto, ma ha soldato due sicari perché si vendicassero. Si vendicassero perché lei l'aveva lasciato. Siamo le solite. I maschi tornano alla clava, non vogliono essere lasciati, non vogliono essere contraddetti, vogliono comandare. In questa orrenda azione di Pesaro torna il vetriolo. E i giornali hanno citato gli usi pakistani, ma non occorre andare così lontano. In un passato recente il vetriolo era la vendetta più economica, per esempio nel mio paese umbro. Io mi ricordo c'erano tre donne sferreggiate e ne sentivo parlare con dei risolini come se avessero avuto alla fine ciò che si meritavano. La colpa di queste donne era la stessa di oggi, avevano disobbedito al maschio. Anche buttare l'acido in faccia è un delitto, è un annientamento, ti sfiguro, ti porto via i tuoi tratti e il primo rischio poi è che si perda la vista. Questo uomo che è stato arrestato, questo ex, se sarà confermato che è stato lui, ancora una volta non si tratta di un pregiudicato, si tratta del solito cittadino modello. E il colpevole, anche se magari in prigione, comunque ha consumato la sua vendetta. Si sta godendo il suo crimine, anche se sarà condannato. La prepotenza vince sempre. Guai ai disarmati, guai ai miti, guai alle donne. E quanta civiltà c'è in noi, noi donne, dico, se le donne non sfregiano, non uccidono, se questa strage ha senso unico, le donne non si vendicano. Però, più che fare un discorso generale, io spero, soprattutto spero, che Lucia Annibali ne abbia il minor danno possibile. Io, Gloria, le siamo vicine, cioè non possiamo fare niente per lei, solo sentire con lei, preghiere non ci credo, solo però pensarla. Con rabbia e con sofferenza. Pensarla. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Шагаю еле-еле. Mi scrive un ascoltatore che non firma. Quando ti ascolto non penetro nei meandri degli argomenti. Mi piace solo seguire la melodiosità della tua voce, senza scopi affettivi o sessuali. Grazie. Guarda, è una cosa di famiglia. Mio padre, che oltre che giocatore di poker era anche insegnante di matematica ed era un vero maestro nel riuscire a far capire ciò che spiegava alle teste più dure, meno cara mia. Una volta gli mandano a ripetizione un caso disperato, uno che andava male in tutte le materie, perché non era capace di concentrarsi. Dopo qualche minuto la sua mente vagava. E allora la madre disse a mio padre, guardi, lei è l'ultima speranza. E lui comincia da una cosa facile e spiega al ragazzo le frazioni e intanto lo tiene d'occhio per vedere se lui segue. Ed ebbe la grande soddisfazione di vederlo vigile, con degli occhioni attenti, non perdeva una sillaba, era rapito, come se la bellezza della matematica gli si fosse alla fine dispiegata dinanzi tutta insieme. E lui gli disse alla fine, hai capito? E lui con grande entusiasmo, che bella voce, professore, non aveva sentito una parola. A parte questo, ma lo sai che io un elogio così lo terrò fra le cose più preziose, È bellissimo essere apparentata ai passeri, agli usignoli, alle cince, a queste creature libere che producono musica invece di parole. È una visione poetica che credevo non mi sarebbe mai toccata. E poi continua la lettera: per favore non inquinare melodiosi suoni con le pochezze umane. Parlaci dei tuoi sentimenti, della natura che ci circonda, dal mare tempestoso al tenue cinguettio degli uccelli. E poi improvvisamente al rombo dei cannoni, alla quiete di un prato fiorito. Non so se mi spiego, mi sento Ulisse moderno, confuso dal canto della sirena. Un'ultima domanda. Hai iniziato la tua corrispondenza d'amore con «Ho tanta fame d'amore che posso sfamare il mondo». Che significa? E quali risultati hai ottenuto? Beh, quella frase era un paradosso, era un rovesciamento di senso da sbruffona. Cosa ho ottenuto? Ma non lo so, sono stata e sto in compagnia di quelle ai quali voglio bene e che me ne vogliono. La parola compromesso in amore io nemmeno la capisco. Me la devono spiegare e dopo continuo a non capire lo stesso. Chiude la lettera dicendo: è troppo se oso chiederti una risposta tramite email? Eh sì, è troppo, perché sono molti quelli che scrivono facendo la stessa richiesta e se rispondessi a tutti in privato non ci sarebbe più trasmissione. E poi mi dici di andare sul tuo sito. Oh, io ci sono andata nel tuo sito, Orizzonti Poetici, e con mia grande sorpresa ho visto che sei un intellettuale complicatissimo, molto cerebrale, che usi delle parole nei versi che starebbero meglio in un trattato sociopolitico. E quindi, ancor di più apprezzo che tu sia stato capace di ascoltarmi come se fossi un volatile. Sono una nonna angosciata per il futuro dei suoi nipoti. Le mamme sono noiose, ma qualche volta bisognerebbe ascoltarle. Avevo visto fin dall'inizio che mia figlia faceva malissimo sposare quell'uomo, ma era una passione cieca e l'ha fatto. 3 figli in 4 anni, poi sono cominciate liti, botte e si sono separati. E i bambini sono diventati le vittime delle loro ripicche. Lui è letteralmente una bestia, ma mia figlia ha i suoi torti, è molto vendicativa. Ora i miei nipotini hanno 5, 6, 7 anni, sono intelligentissimi. Ma io mi chiedo cosa diventeranno da grandi, cresciuti in mezzo a questa catastrofe. Prego Dio, ma più spesso piango, perché all'età in cui si ha bisogno delle favole, sentono parlare solo di avvocati, di rancori, e io so che morendo lascerò soli 3 disgraziati. Tita. Cara nonna, certo, per i 3 bambini la situazione non è allegra. I genitori sono 2 scellerati senza riguardo. Però anche la nonna, te la raccomando, cioè tu. Invece di dare una mano a sti ragazzi, te ne stai lì a menare, scusa, gramo, celebrando un ingiustificato funerale anticipato sulla crescita di queste 3 creature. Ma queste favole, perché non le racconti tu, visto che pensi che ne abbiano tanto bisogno? Piangi meno e portali, che ne so, alle giostre, al cinema, come si fa con i bambini, che sappiano di poter contare su di te. Potresti essere decisiva per la loro sicurezza, però la dovresti smettere di frignare. Il terremoto c'è stato, ma adesso rimboccati le maniche. Il martirio dei bambini, divorati e triturati dai genitori, non è cominciato oggi. Nella mitologia greca, per esempio, Crono, che sgranocchia i suoi figli, ci avverte simbolicamente che è pratica arcaica. Però vedi, la natura umana è meno determinista della scienza pedagogica, meno della psicologia. Certo che noi siamo la nostra educazione, ma interpretata da ogni carattere e da ogni intelletto in una maniera unica e spesso sorprendente. Se dovessimo essere il risultato aritmetico della nostra educazione, poveri noi. La natura, cara nonna, la sa più lunga degli avvocati, dei genitori scriteriati, delle nonne. E lo spirito, se non crolla, si affina nella sventura. Di esempi te ne potrei fare 1000, mi limito a uno che mi delizia. La storia di Benjamin Constant, il grande amico di Madame de Stael, vissuto tra il 1767 e il 1830. Tu pensa che l'infanzia dei tuoi 3 nipotini è un paradiso rispetto alla sua. Ti do qualche dato. La madre muore che lui ha 15 giorni e il padre, che è militare, lo affida ai precettori. Il primo precettore è un sadico che per tormentare il bambino gli impone lo studio del greco quando ha 5 anni. Il piccolo Benjamin è entusiasta. Crede che si tratti di un alfabeto segreto, conosciuto solo da loro 2, tra l'altro un maestro questo precettore, e i suoi giocattoli diventano i verbi greci. Il secondo precettore è un maniaco sessuale, che prende in affitto un appartamento sotto un bordello, così è il vizio in casa. Quindi praticamente Benjamin vive in un bordello. Il terzo è il peggiore. È un ex avvocato vanitoso, con manie letterarie, che fa copiare e ricopiare al piccolo Benjamin una sua indigeribile opera. Insomma, lo usa e lo massacra come scrivano. Ma ce n'è un quarto, un prete spretato, con gli occhi sempre rossi di pianto, che finisce suicida per amore. E il piccolo Constant? Se un carattere fosse una piatta somma, sarebbe dovuto diventare un serial killer, il trauma in persona. E invece divenne uno dei più begli spiriti del suo tempo. E quando morì, pianse tutta la Francia. Se ce l'ha fatta lui, a parte che aveva molto ingegno, è vero, ma c'è speranza anche per i tuoi nipoti, che sono molto più fortunati in partenza. Benjamin Constant non aveva la nonna. Mio figlio ha messo incinta la ragazza indiana cameriera in casa nostra da 2 anni. Ma il peggio è che vuole sposarla. Senza amore, lo so, solo per un senso del dovere e per certe idee romantiche sull'Oriente. Io e suo padre siamo esterrefatti. Razzisti non siamo mai stati. Nanin. Razzisti forse no, ma classisti sì. La cameriera è sempre la cameriera. Non ha prestigio, non ha patrimonio. E quanto all'assenza di razzismo, non ti preoccupare, Nanin. Se anche non lo si è mai stati razzisti, ci si diventa in un istante. La cosa più grave è che ti credi l'interprete dei sentimenti del figlio, idee romantiche sull'Oriente. Ma no, cara, probabilmente lui è una gran cotta per questa ragazza. E in più, ha un'arma, si mantiene da solo, anche se vive adesso con te. Io credo che si sposeranno anche con la tua maledizione. E allora, tanto vale che tu li benedica. Mio marito mi ha imbrogliata. Credevo di stare abbastanza bene con lui. Invece ho scoperto che il nostro matrimonio, almeno sessualmente, è una truffa. Prima di lui avevo avuto solo un altro, più o meno della stessa tempra. 2 baci, poi l'atto, poi via. E questo ogni tanto. Poi ho conosciuto l'altro e ho capito che cosa significa fare l'amore. Nessuno mi aveva baciato i capezzoli, le orecchie, il sesso. Nessuno si era curato di svegliare i miei sensi. Non ho mai provato un'attrazione così forte e neanche io avevo mai fatto a un corpo di un uomo quello che faccio con lui. Mi ha fatto scoprire la tenerezza, l'intimità e il godimento. Non ho sensi di colpa verso mio marito, anzi, ce l'ho con lui a morte. Aveva avuto tante donne prima di me, ma che le ha avute a fare? Gli ho già detto che voglio lasciarlo, non capisce. Non ho più voluto fare l'amore con lui, dormo sul divano, lo disprezzo. Mi ha tenuta con gli occhi chiusi per 12 anni. Io sono un fenomeno a letto. Se fosse stato per lui, sarei vissuta senza saperlo. La risvegliata. Io credo che noi donne ci dobbiamo decidere. O vogliamo essere emancipate, oppure antiche e affidate al maschio in tutto. Io capisco l'istintività aggressiva che ti è venuta verso il marito, questa voglia di buttargli addosso tutta la colpa. Però parli come una sposa di altri tempi, quando il maschio era arbitro assoluto del rapporto, quando dispensava alla ignorantissima moglie, che era cresciuta accuratamente lontana da qualsiasi consapevolezza sessuale, e stava a lui dispensare freddezza o calore. Oggi la situazione è un'altra. Perché non hai provato tu a svegliare lui? La vostra responsabilità è identica. Avete mancato in due. In questo piccolo tribunale del faro lo dobbiamo assolvere, oppure condannarvi entrambi. Anzi, a lui è andata peggio, perché tu hai trovato uno splendido insegnante. Ora sai di avere un corpo, lo sai usare. Lui invece, poveretto, ti ha perduta. E ancora non sa nemmeno perché. E soffre ciecamente. Io penso che dovresti essere almeno un po' generosa e dirgli la verità. Sai, magari anche lui un giorno potrebbe avere una rivelazione e completarsi con un'altra. Siete stati reciprocamente un cattivo affare. Non c'era desiderio dall'inizio. Sai, il sesso non è una scienza, è un impulso irragionevole. E tu sei stata fantastica a letto con uno che ti piaceva, mentre con tuo marito rimanevate sconosciuti. Tu lo disprezzavi anche prima, non gli vuoi bene. E non solo perché non ti accarezza, non ti bacia, accende e lecca. Ora lo vittimizzi e fai la vittima. Io penso che sia tuo diritto lasciarlo, ma perché devi infierire? Poi senti, non siete un'eccezione. Ci sono milioni di maschi che non sanno bene cosa fare del corpo di una donna e milioni di femmine che toccano senza capirlo il corpo dell'uomo. Infiniti matrimoni e relazioni che vivono in sonno, senza mai conoscere la potenza del sesso, e vivono come strumenti musicali muti, molti dei quali muoiono senza aver mai mandato suoni. inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, как сладко. Inclini all'amore è il titolo del romanzo di Tiana Jerkovic pubblicato da Playground. È molto importante che Tiana in questo momento stia per arrivare al faro, perché Inclini all'amore, questo libro affascinante, durissimo e pieno di tenerezza, è un gran bel dono per la letteratura italiana e per la lingua italiana. Tiana, che è serba, lo ha scritto in italiano, lo ha magnificamente scritto in italiano, però su un immaginario linguistico serbo. Non c'è mai l'aggettivo o l'immagine che ti aspetti, mai una ricaduta nel luogo comune. E questo rinfresca lo spirito di chi legge. E Tiana Jerkovic, con questa lingua rinnovata, ci racconta un mondo così vicino a noi, di cui non sappiamo niente, che a malapena ci ricordiamo di avere bombardato. Non è solo la presentazione di un libro, ma una festa da lungo attesa. Quando abbiamo cominciato questa trasmissione, Tiana Jerkovic, che era una viandante del faro ed è venuta spesso a leggere dei suoi racconti, che erano già una traccia di questo libro. Con la scrittura e con la pubblicazione di Inclini all'amore molte cose si compiono. È un rito di ritorno alla vita, è la celebrazione di un lutto e di una rinascita. Io l'ho letto fin dalla prima versione e già c'era questa potenza linguistica e la sorpresa delle metafore, e da subito si capiva che sarebbe stato questo libro un requiem e un magnificat. Poi non è più venuta a leggere perché si è buttata a lavorarci, e qui fa un grande incontro Andrea Bergamini, grande editore, l'unico che si permette il lusso di non cadere nella iperproduzione e di fare meno di 10 titoli all'anno. Non solo ho assistito alla nascita di questo romanzo, ma ho vissuto in parte con l'autrice le tragedie che lo hanno generato e anche le fortune, come appunto l'incontro con Andrea Bergamini. E quando lessi la lettera che questo giovane editore aveva scritto a Tiana appena letto il libro, ecco lì finalmente ho capito perché Bergamini, che è uno scrittore nato, avesse rinunciato alla scrittura per occuparsi dei libri degli altri. Perché come scrittore è bravo, ma come editore è geniale, è l'editore che tutti vorrebbero avere, ha l'istinto del libro, la scienza del libro, è tutt'uno col libro che pubblica. E mi colpì soprattutto una notazione sul linguaggio di Tiana che aveva fatto. Quel che racconti e la lingua da te scelta non ammettono imprecisioni. Non abbiamo a che fare con una lingua impressionista che si esalta delle imperfezioni. È esattamente il contrario. La tua ironia e il tuo universo poetico hanno bisogno di una precisione senza sconti. Su Facebook potete vedere una foto molto importante, una foto che già tutto il libro ritrae Tiana Jerkovic bambina con Momcilo, suo padre. In questa foto c'è già tutto. E mi ricorda il film di Bogdanovich, Paper Moon. Vediamo in questa foto, in bianco e nero, un ragazzo bello e così giovane che potrebbe essere un fratello, invece è un padre. È il padre di Tiana che le tiene la mano sulla spalla con un gesto di protezione. E lei, una piccola guerriera serba di 7 anni, una scugnizza. C'è già in questa bambina colei che poi metterà sull'arca, in questo romanzo, tutta la sua famiglia e se stessa, scrivendo: «È da dove parte la mia radice che arriva il mio dolore. Io ero l'orfana perfetta della mia terra scomparsa». La quarta di copertina l'ha scritta Bergamini e dice: «È possibile per una giovane donna diventare l'erede di una storia e di una famiglia tutta al maschile? Sì, se si è inclini all'amore e se si possiede l'arte del racconto, l'arte di avvincere con le parole. Parole che restituiscono un secolo, il Novecento». Questo giovane delicato e bellissimo, che poi diventerà, anzi all'epoca della foto lo è già, uno dei più grandi poeti serbi, è un ragazzo che dal Montenegro a 12 anni è scappato per combattere come partigiano di Tito, correndo dietro al suo dio personale, il fratello Mihailo, che si era già arruolato, e combatterà e perderà il braccio sinistro, che fortuna, no? È mancino, Momcilo, e anche un occhio. E poi, quando torna a 19 anni, come ricompensa di questo suo eroismo, è il momento dei dissapori, se così vogliamo dire, fra Tito e Stalin, e quindi a caso vengono prese migliaia di cittadini, di ex combattenti, con l'accusa di essere stalinisti, e viene sbattuto con migliaia di altri nell'isola di San Gregorio, un lager dove per 4 anni rischierà la vita, e nonostante questa sua aria così delicata, in verità una tempra fortissima, e perché ce la fa? Oh, è arrivata Tiana Gerkovic al Faro. Buongiorno Tiana. Buongiorno, buongiorno Barbara. Con questa vocina da collegiale, non è così Tiana, non è soltanto così. Stavo dicendo di questa apparenza eterea del giovane Momicilo, e però ce l'ha fatta. Come ce l'ha fatta Tiana? Ce l'ha fatta appunto perché era molto forte, aveva una forza dell'animo, una forza di vita, un attaccamento alla vita, e comunque era giovane, voleva fare tante cose nella vita e non voleva farsi sopraffare dagli eventi. E poi aveva anche una visione. Chiaro, aveva una visione di un mondo diverso, delle possibilità. Voleva vivere semplicemente, ma non a tutti i costi. Voleva vivere con dignità e creando. Tiana, tu sei serba, ma abiti in Italia, ti sei sposata, hai dei figli semi-italiani da molti anni. Tu pensi in serbo o pensi in italiano? Io penso in tutte e due le lingue, sento in tutte e due le lingue e scrivo in tutte e due le lingue. Ma quando hai scritto questo libro? Stranamente mi è arrivato in italiano, stranamente. E poi volevo avere la distanza dal racconto e pensavo che con la lingua italiana avrei avuto questa distanza. Invece ho affondato di più nel racconto e nelle emozioni. Tu sei andata a ritrovare tutta la storia della tua famiglia, in mezzo a tantissimi dolori anche. Ti ho sentito anche dire che contavi sulla lingua italiana un po' come filtro. Sì, sì. Per attutire un poco. Sì, per attutire anche la dei violenza. Sentimenti e delle mancanze, degli avvenimenti tragici che ci sono capitati a tutti quanti indistintamente, in tutte le generazioni. Io ho conosciuto Tiana nel 1999, l'anno della cosiddetta guerra umanitaria, quando siamo andati a bombardare l'ex Jugoslavia, e ho ritrovato un articolo del Corriere della Sera di allora. Tiana allora era molto conosciuta perché alla trasmissione Moby Dick di Santoro, tra le pochissime che dessero una reale informazione su ciò che stava accadendo, lei ristabiliva la verità dei fatti. E ho trovato un articolo, una tua intervista al Corriere della Sera di allora, dove dicevi: io, jugoslava, ho imparato da papà a non odiare. Per me sarebbe terribile sapere che i soldati italiani hanno ucciso dei miei connazionali. Mio padre, partigiano di Tito, sognava un mondo migliore. Adesso è a Belgrado sotto le bombe e prega davanti all'icona di San Nicola. Poi dici alla giornalista: non farla troppo mielosa, giornalista, noi serbi siamo gente seria. E hai anche detto: papà è stato comunista, si capisce, ma non combatteva per un'ideologia, piuttosto per un ideale, e che l'ideale a lui è rimasto ancora intatto a 68 anni. Papà è diventato uno scrittore e un poeta famoso, e adesso sta sotto le bombe della NATO nella Belgrado di Milosevic, nel buio di un palazzo del centro storico oscurato, davanti a un lumino acceso, sotto l'icona di San Nicola. Cioè, tu avevi invitato tuo padre e tua madre a venire a rifugiarsi in Italia. Sì, io volevo farli salvare, volevo che venissero da me perché qua erano sicuro, e lui non ha voluto assolutamente, ha detto che era troppo vecchio per imbracciare un fucile e difendere il paese, ma poteva comunque con la sua presenza fare un atto di difesa. Le parole non sono grano, che quando trabocca dal granaio lo raccogli con la pala per poi rimetterlo a posto. Le parole si accompagnano al rimpianto e alla perdita. Una volta dette, non le recuperi più. È sempre meglio dire una parola in meno che una in più. Questo insegnava Milovan Djerkovic ai suoi 6 figli, quasi un secolo fa. Perché la storia comincia dal Montenegro, comincia da questi giovani emigranti, da questi giganti che migrano prima in Europa e poi in America. E Milovan al ritorno diventerà il grande cantore di questa epopea. E il piccolo Vladimir, che nel libro è tuo padre, avrà la sua prima ispirazione dai racconti del padre. Ecco, vorrevo leggere, Tiana, la poesia di Momcilo, tuo padre, sì, che metti all'inizio e che è il motivo del libro. Parla, che la casa non rimanga sorda. che la pietra non si spacchi, che l'acqua non perda il suo ritmo. La storia dei tuoi ricordi lascia che si racconti da sola. Gioisci per la pioggia di maggio, per l'essenza generatrice della terra. Non tacere il tuo nome a nessuno, è tuo, ti distingue. Sul focolare alimenta il fuoco, che il fumo voli sopra il tetto, che faccia riunire la famiglia, che in casa echeggino le voci dei bambini, che la casa non diventi sorda, mentre la vita cresce e si dirama. Questo è un po' come dire Tiana, vai e scrivi. Sì, era anche un po' quando io ho deciso di andare a vivere in Italia per scelta, era anche il suo timore che io potessi dimenticare chi ero. E per me era una cosa assolutamente fuori ogni pensiero. Però con i bombardamenti di Belgrado, con tutte le cose che avevo sentito di me stessa come serba, avevo anche io la stessa paura di perdermi, di perdere il mio nome, di perdere la mia identità, di perdere tutto quello che era. È uno dei motivi per i quali un giorno mi sono messa seduta e mi sono riappropriata delle mie origini, della mia famiglia, delle persone magari che non avevo neanche conosciuto, però io ce l'avevo da sempre dentro, le porto con me. Come nonna Milena? Milena è veramente il personaggio, mia nonna, che era una donna fortissima. Era una donna di altri tempi, ma modernissima e forte. La quale a 15 anni, quando vanno a proporle di sposare Luka Vukovic, e lei guarda i messaggeri, c'è suo fratello Milovan, e dice «No, io voglio sposare lui». In un mondo in cui la situazione della donna non è certo paradisiaca, lei riesce a spuntarla. Sì, assolutamente. Lei aveva un carattere fortissimo e, in una società patriarcale in assoluto. Lei ha scelto l'uomo che voleva sposare. Lei proteggeva la casa imbracciando il fucile quando il marito non c'era. E stranamente questi uomini, quando lei ha scelto Milovan per il marito, hanno acconsentito, perché probabilmente avevano percepito questa forza incredibile in lei. E da qui comincia tutto, e cominciano appunto il girovagare di questi giovani montenegrini che arrivano a Vienna e vedono queste cattedrali cattoliche, e dice come se dicessero orgogliosamente, andando verso il cielo: Dio, guarda solo noi, benedici solo noi la benedizione. E poi comincia con la prima avventura di libero pensatore del piccolo Vladimir, quando durante la comunione nega che il pane e il vino siano il corpo e il sangue di Gesù, e quindi viene picchiato selvaggiamente dal parroco e dal suo sagrestano, che vanno a lagnarsi dal padre. Te sì. Lo abbiamo portato, dice il prete, questo adoratore di Satana, per fargli pagare quanto ha fatto stamattina nella casa di Dio, disse il pope. Il cappellano taceva. Solo qualche istante prima si era sentito il braccio della volontà divina, ma ora, al momento di ricevere gli elogi, provava disagio davanti a questo bambino pestato a sangue. Milovan prese il figlio in consegna, gli posò la grande mano sulla spalla e, senza nemmeno guardarlo, disse: vai in casa e aspettami sveglio. Il pope era già pronto a esultare quando il padre di Vladimir lo interruppe. Ormai l'hai fatto, pope, ma non ti azzardare mai più a toccare Vladimir, hai capito? Chi minaccia la mia famiglia io lo abbatto, lo sradico dalla vita. Ringrazia il Signore che sei un uomo di chiesa, perché altrimenti ti farei vedere che cosa succede a chi tocca i miei figli. Ecco, questi sono i Vukovic e questa è Tiana, erede di questa schiatta. La guardiana del faro. E c'è qui al faro Tiana Jerković, scrittrice serba che ha scritto in italiano Inclini all'amore, pubblicato da Playground. Mi è piaciuta molto l'intervista che ti ha fatto Antonella Barina sul venerdì di Repubblica, dove a un certo punto dice: bella, simpatica, di talento e raffinata cultura, insomma, una Marina Abramovic che però non se la tira. La narratrice del libro e in parte protagonista, Arianna, quando è grande si fidanza con il figlio di un potente generale del controspionaggio, attraverso le indagini che fa il futuro suocero, verrà a scoprire un segreto tremendo. Lei, che ha col padre un rapporto di totale confidenza e crede che non ci siano segreti tra loro, scopre invece questo torto tremendo che gli è stato fatto, la permanenza al lager e il fatto che comunque lui, finché c'è Tito e anche dopo, ha un marchio. Così come qua si guarda quando si fidanzano i ragazzi come la famiglia nobile, ricca e così via, nella Jugoslavia socialista si guardava al rango politico. Al rango politico e alla correttezza politica, no? E il padre del ragazzo, della protagonista, controlla un attimino la famiglia e scopre che questo padre è un, come lo chiamano, isolanudiano, perché c'erano due isole, due lager importanti su due isole, uno è San Gregorio e l'altro Isola Nuda, e scopre che questo padre ha un'onta indelebile. E comunque proibisce in una certa maniera al figlio di frequentare la ragazza. E così si scopre, così la protagonista scopre il passato compromettente del padre, che poi è tutt'altro che compromettente, è un passato tragico che lui aveva nascosto, ma non perché se ne vergognava, oppure semplicemente non voleva appesantire con questa eredità terribile i propri figli. E tanto meno la figlia che adorava. Cioè, è un silenzio eroico, perché lui non si è mai lagnato. Assolutamente è un segno di un amore infinito, perché ha fatto crescere i figli senza questa difficile eredità. Tra l'altro lei, che appunto non è stata informata, è cresciuta come tutte le adolescenti nell'epoca titina a Belgrado, ha orrore anche del fatto che di avere amato Tito quasi come un'estensione del padre. Sì, perché era un padre della nazione, è molto difficile spiegarlo a chi non l'ha vissuto. Si sente un amore indotto dalle elementari per una persona che poi non rappresenta nulla in fin dei conti. Quante migliaia di persone sono state sacrificate come tuo padre da Tito? Non si sa ancora un numero preciso, perché è una verità della quale non si parla ufficialmente tanto. È ancora rimossa? È ancora rimossa, sono molte migliaia, in ogni caso sono molte migliaia. Io ne conosco i figli di molti. Cioè lui ha frantumato migliaia di vite per dare un segnale a Stalin. Praticamente da una notte a una mattina all'improvviso abbiamo tolto questo fidanzamento con l'Unione Sovietica, e le persone dovevano cambiare assolutamente subito l'opinione, era impossibile. Bastava che un vicino di casa facesse la denuncia e si andava dentro dopo dei processi veramente sommari. A mio padre, come a tanti altri, è stato fatto un processo ed è stato condannato subito a 12 anni, veramente. Lui ne aveva 19 e ne ha fatto 4 e mezzo. E come dice la moglie di Mandelstam sul periodo staliniano, dice: ci si poteva salvare solo per caso. Sì, è vero. Certe volte neanche per caso. Questo amore viscerale che la protagonista aveva per il padre naturalmente sfocia anche nel desiderio di identificarsi con lui, per cui lei a 6 anni, 7 anni si rade i baffi davanti a uno specchio perché vuole diventare come suo padre, vuole essere come lui in tutte le cose e diventare uomo. però questo non accade. Accadrà quando la ragazza Arianna scriverà il libro e diventa uomo, in quanto prende su di sé la memoria di tutta la sua stirpe. Sì, provenendo da una realtà dove l'eredità maschile è molto importante, come in tutto il Mediterraneo. Io ho avuto per lunghi anni il pudore di scrivere un libro con questo tema per un solo motivo, perché non ero un uomo. Però poi me ne sono liberata e forse sono diventata anche un po' più uomo con questo libro, non lo so. Una delle mie pagine preferite è quando il giovane Momicilo torna dal lager dopo sofferenze inaudite, è ormai un fuscello, proprio vola per la strada con questa sua divisa pezzente, con tutti i segni dei patimenti, e l'unica sua speranza è andare dal fratello che studia, è ancora studente a Belgrado. Questa casa calda, questa casa normale dove lui approda e vista con i suoi occhi. Una signora abbastanza pietosa gli apre la porta e lui non ha 20 anni ma ha già i capelli bianchi. Dio mio, lei è ancora un bambino. No, no, compagna, ho 23 anni e ha già i capelli bianchi. Si vede? Nonostante quel suo taglio orribile, disse la donna. Poi spalancò la porta e accennando un sorriso mi fece entrare in casa. Mi fermai in piedi nell'anticamera, ma lei insistette perché mi accomodassi in salotto. La casa era spaziosa, i soffitti alti, il pavimento di legno gemette sotto i miei pesanti zoccoli militari. Dal centro del soffitto scendeva un imponente lampadario di cristallo con le gocce opache. La stanza era piena di quadri e specchi che avevano un che di vissuto e caldo. Sulle finestre, nello spazio tra i due vetri, c'erano fiori, forse begonie. Sentii un forte brivido. Una grande stufa di maiolica era addossata contro il muro di fronte al divano, dove mi aveva fatto accomodare la compagna. Il gioco delle maioliche e dei loro incastri rendeva la sua forma dolce e gentile. I bordi erano di un verde acqua intenso, che si attenuava verso il centro per poi, una volta arrivato al cuore, diventare quasi bianco. Era sinuosa e pareva in movimento, mentre il calore che irradiava era reale. Lo sentivo addosso, come un abbraccio lungamente desiderato. Era l'oggetto più bello che avessi mai visto in tutta la mia vita. Secondo me questo commuove più delle atrocità che tu racconti, che subisce durante la prigionia. Ho cercato di parlare pochissimo delle atrocità, anche se lui ce l'ha raccontate. Poi ho letto tanti libri di altri autori jugoslavi. Non volevo che accento fosse proprio sulle atrocità, perché erano veramente oltre che le atrocità. Perché lui non voleva che si parlasse tantissimo, lui non portava rancore, non era arrabbiato, non aveva odio, perché diceva: se io fossi diventato una persona che odia, una persona che porta rancore, questo avrebbe il significato della loro vittoria. E invece io ho conservato tutte le emozioni, tutti i sentimenti, un approccio assolutamente positivo verso la vita, verso l'uomo, e aveva molta, molta compassione per la condizione umana, moltissima. Questo libro è il suo ritorno a casa, definitivo. A casa dove, Tiana? A casa che sono le mie origini, delle quali io sono molto fiera, sono molto contenta di portare la mia testa e il mio nome ovunque io viva, anche in questo momento. Il nome parla che la casa non rimanga sorda, che la pietra non si spacchi, che l'acqua non perda il suo ritmo. La storia dei tuoi ricordi lascia che si racconti da sola. Gioisci per la pioggia di maggio, per l'essenza generatrice della terra. Non tacere il tuo nome a nessuno, è tuo, ti distingue. Sul focolare alimenta il fuoco, che il fumo voli sopra il tetto, che faccia riunire la famiglia, che in casa echeggino le voci dei bambini, che la casa non diventi sorda, mentre la vita cresce e si dirama. Capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.